Canto 32 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 32. Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo, descriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma e babbo. Ma quelle donne aiutino il mio verso, aiutaro Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. O sovra tutte mal creata plebe, che stai nel loco onde parlare è duro, me fosse state qui pecore o zebe. Come noi fummo giù nel pozzo scuro, sotto i piedi il gigante, assai più bassi, ed io mirava ancora all'alto muro, dice udimmi, guarda come passi, fa sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei miseri, lassi. Perch'io mi volsi e vidimi davante sotto i piedi un lago che per gielo avea di vetro e non d'acqua sembiante. Non fece al corso suo sì grosso velo, di verno la Danoia in austericchi, né il Tanai là sotto il freddo cielo, com'era quivi, che se Tabernicchi vi fosse su caduto pietrapana, non avria pur dell'orlo fatto cricchi. E come a gracidarsi sta la rana, col muso fuor dell'acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana, livide, insin là dove appar vergogna, eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia, da bocca al freddo e dagli occhi il cuor tristo tra lor testimonianza si procaccia. Quando io ebbi intorno alquanto visto, volsimi a piedi e vidi due, si stretti che il pel del capo avviene insieme misto. Ditemi voi che si stringete i petti, diss'io, chi siete? E quei piegaro i colli, e poi ch'ebberli visi a me eretti, gli occhi lor, che eran pria pur dentro molli, gocciar su per le labbra, e il gelo strinse le lagrime tra essi. E riserrolli. Con legno, legno spranga mai non cinse forte così, ond'ei come due becchi cozzaro insieme, tant'ira li vinse. Ed un, ch'avea perduti ambo gli orecchi per la freddura, pur col viso in giù e disse: perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzio si dichina del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo usciro e tutta la Caina potrai cercar e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. Non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra, con esso un colpo per la man d'Artù, non focaccia. Non questi che m'ingombra col capo sì ch'io non veggio oltre più, e fu nomato Sasso il Mascheroni. Se tosco sei, ben sai omai chi fu. E perché non mi metti in più sermoni, sappi ch'io sono il camicion de pazzi, ed aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid'io mille visi cagnazzi fatti per freddo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre degelati guazzi. E mentre ch'andavamo in ver lo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, ed io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste forti percosse il pie nel viso ad una. Piangendo mi sgridò: perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? Ed io: maestro mio, or qui m'aspetta, sì ch'io esca d'un dubbio per costui, poi mi farai quantunque vorrai fretta. Lo duca stette, ed io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: qual sei tu che così rampogni altrui? Or tu chi sei che vai per l'antenora percotendo? Rispose: altrui le gote, sì che se fossi vivo troppo fora. Vivo son io, e caro esserti puote, fu mia risposta, se dimandi fama che io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: nel contrario ho io brama, levati quinci, non mi dar più lagna, che mal sai lusungar per questa lama. Allora il presi per la cuticagna e dissi: e converrà che tu ti nomi, o che capel qui su non ti rimagna? Ond'ei a me: perché tu mi dischiomi, né ti dirò ch'io sia, né mostrerolti se mille fiate in sul capo mi tomi. Io avea già i capelli in mano avvolti, e tratti di una via più d'una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: che hai tu, bocca? Non ti basta suonar con le mascelle, se tu non latri? Qual diavol ti tocca? Omai, dissi io, non vo che tu favelle, malvagio traditor, ch'alla tua onta io porterò di te vere novelle. Va via, rispose, e ciò che tu vuoi conta, ma non tacer, se tu di qua entreschi, di quel che ebbe or così la lingua pronta. Ei piange qui l'argento de Franceschi. Io vidi, potrei dir, quel da duera, laddove i peccatori stanno freschi. Se fossi dimandato altri chi vera, tu hai da lato quel di Beccheria, di cui segò Fiorenza la gorgiera. Gianni del Soldanier credo che sia, più là con Ganellone e Tribaldello, caprì Faenza quando si dormia. Noi eravam partiti già da Ello, ch'io vidi duo ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, così il sovrano li denti all'altro pose, lave il cervel s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti ti deo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei facea il teschio e l'altre cose. O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, dissi io, per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancor io te ne cangi, se quella con ch'io parlo non si secca. Fine del canto 32.